Dunque, il punto è questo. Se non riesci a individuare il pollo nella prima mezz'ora di gioco, allora il pollo sei tu. Non rischiarne troppo, tira via quanto basta. Nel nostro giro si dice, giocare per non mi resta che passare e credergli. Rilascio, non mi resta. Hai un piatto che ti farebbe pareggiare i conti. Come cazzo è possibile non giocarla? Ho imparato a vincere un po' la volta. Da quando sei nato e come sei iniziato il tuo tavolo. Cerca di star sveglio, non mandare tutto al diavolo. Cavolo, devi puntare tutto come Texas Hold. E non esiste che te ne esca con un fold. Devi pensare ad andare avanti, accetta le sfide. E il tuo chip leader, il potere non lo divide. Non pensare di rilanciare e fare il cool. Vuoi vivere a colori, ma lui ha un cazzo di full. Ad Edoti alla mano, cerca di andare. Guarda che dice il dealer e valuta se passare. Se decidi di collare o varcare i confini, ma non parlo se in mano solo due scartini. Ci sei dentro e la forza è troppa. Aspetta un secondo e vedi se ti floppa. Ok, il punto non casca, in testa una burrasca. Ha rilanciato, vai con la vasca. Ok man, this is your doom. Sta vita somiglia sempre più a una poker room. Passa, rilancia, all in, sì signore. Questa è la tua vita, escine da vincitore. Ok man, this is your doom. Sta vita somiglia sempre più a una poker room. Passa, rilancia, all in, sì signore. Questa è la tua vita, esci da vincitore. Sali di rank, ma il torneo è ancora aperto. E sti squali vogliono il tuo sangue, stanne certo. Non seguire un'idea che si sgretola. Non aspettare i river per avere le carte in regola. Devi essere riflessivo, ascolta e mo. Sta vita non vincono i primi quattro. Tipo sit and go, mi sogno essere i primi per non essere sbranati. Da sti cani che sembrano essere affamati. La temperatura si frocce, strepito sul porch. Le carte ti girano bene da un tot. Non so fermarti sul sogno di uno yacht. Qua non finisce bene, non è uno spot. Rilancia, aspetta che il ciolla te la colla. Stai tranquillo, anche se sei in bolla. Non far trapelare sorrisi nel nulla di strano. Sto piatto è tuo, vai con la prossima mano. Ok man, this is your doom. Sta vita somiglia sempre più a una poker room. Passa, rilancia, all in, sì signore. Questa è la tua vita, esci ne da vincitore. Ok man, this is your doom. Sta vita somiglia sempre più a una poker room. Passa, rilancia, all in, sì signore. Questa è la tua vita, esci da vincitore. Non puoi perdere quello che non metti nel piatto. Ma non puoi neanche vincere. Ok, fai check, le carte non sono delle migliori. A terra tre picche e tu hai due fiori. Fai parola, spera che non si fotta tutto. Gli occhi del tipo fanno capire che ha un punto. Lascia perdere il tuo big blind. Di riprendere il triple da quel tizio lì. Anche col nodo alla gola. Puoi tossare una pecora mille volte ma scuoiarla una sola. Ok, bella, la sconfitta la si cancella. Dai 110% per quella stella. Sveglia, guarda il turn, don't miss. Ti ha dato una doppia ma forse gli ha dato un tris. C'è chi pensa che sia un gioco di fortuna. Gente con intellettuale e le fisce che raduna. È come la vita, la gente accanita e sparita. La gente che è salita è quella che l'ha capita. Ok man, this is your doom. Sta vita somiglia sempre più a una poker room. Passa, rilancia, all in, sì signore. Questa è la tua vita, esci ne da vincitore. Ok man, this is your doom. Sta vita somiglia sempre più a una poker room. Passa, rilancia, all in, sì signore. La tua vita esci da vincitore. Piovono soldi per giocare e piatto.